Il brutto d'Italia secondo il FAI. Sono oltre 4.000 le segnalazioni giunte nell'ambito del censimento dei luoghi del cuore a favore delle vecchie carceri di Trento, che rischiano di venire abbattute per essere sostituite da nuove anonime costruzioni. Le vecchie carceri rappresentano un'importante testimonianza storico-artistica della città. Fanno parte di un complesso monumentale di fine Ottocento, che comprende anche il tribunale e il penitenziario, progettato dall'architetto viennese Karl Schaden nell'ormai lontano 1877. Il carcere, esempio di architettura civile del periodo austro-ungarico di grande qualità, costruito con materiale locale in pietra di Trento, si sviluppa su tre piani, più un interrato. All'interno, sul corpo centrale dell'edificio, si affacciano due piani di celle con ballatoi. Tre grandi aperture illuminano dall'alto lo spazio centrale, mentre un finestrone in vetro policromo è collocato sul lato occidentale e lungo la facciata orientale si apre una graziosa cappella a due livelli. Dopo il trasferimento delle carceri fuori Trento, è stato approvato un progetto per l'ampliamento del vicino tribunale, da realizzarsi entro il 2010, che prevede la demolizione totale dello storico edificio carcerario e la costruzione di un nuovo polo giudiziario. I cittadini di Trento chiedono con forza di salvare l'edificio e propongono di ristrutturare e tutelare questo luogo del cuore, importante patrimonio storico-artistico della città. Se vuoi vedere ciò di cui parliamo, vai sul sito radio24.it, dove potrai scoprire come partecipare all'iniziativa del FAI, I luoghi del cuore.